Un tempo questo luogo era aperto a tutti i viaggiatori. Ogni parola sussurrata tra queste mura trovava un riflesso duraturo. Il tempio custodiva ogni storia, ogni volto, ogni passo. Non erano solo ricordi, erano radici incise nella pietra, rese vive dal Chronicon Errantium.